Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Up con Nick e Andrea al microfono. Per le prossime 2 ore abbiamo iniziato questa puntata con una bella versione del Bolero di Ravel da parte di Alberto Turra, una versione che potete trovare sul suo nuovo lavoro solista che porta il titolo di Filmworks. Qualche giorno fa ho realizzato un'intervista telefonica proprio con Alberto Turra in cui abbiamo parlato di diverse cosette, ma incentrandoci in modo particolare su questa uscita, appunto, ripeto il titolo, Filmworks per la Felmay. E poi casualmente, parlando con Alberto Collino, scopro che invece lui lo conosceva molto meglio di me e ci siamo messi d'accordo, per cui una delle prossime puntate di Up Alberto andrà a parlare anche di alcune opere del passato di Alberto Turra, chitarrista, compositore, polistrumentista milanese, di cui veramente vanno seguite le tracce. Lo ringrazio ancora per la chiacchierata molto interessante di qualche giorno fa. Ricordo che Filmworks raccoglie in 16 tracce un po' una sorta di summa di quella che è la sua carriera per il mondo del cinema e delle colonne sonore, dunque. E quindi sì, direi di passare subito all'ascolto di un'altra traccia. Si tratta di Col di Lana, il brano che chiude l'intero lavoro, e poi andremo all'ascolto in diverse tranche dell'intervista e della playlist che ci ha proposto Alberto per questa puntata. Thank you. leggevo che è da 15 anni che componi, e quindi questo si può ritenere il tuo primo disco? Come compositore, cioè nel senso, il mio primo disco in termini di raccolta di lavori cinematografici o per il teatro, sì. Sì. In generale, no. Nel senso che ho fatto dischi di altra musica strumentale, di altri progetti, di altre cose, insomma. Col mio nome in termini solista anche, però era proprio un'altra destinazione d'uso, come dire. Ah, ok, quindi ci sono altri lavori a tuo nome. Certamente. Ah, ok, sì, perché non erano menzionati nel libretto. In ogni caso, per quanto riguarda le colonne sonore, invece questo è il tuo primo album, diciamo, esattamente, ufficiale. Esattamente. Leggevo che è stato un po' un incubo scegliere i brani dalla mole di lavoro che hai composto per i vari registi per cui hai lavorato. Perché è stato, vabbè, a parte l'ovvia sensazione di fare un viaggio a ritroso nel passato, perché comunque e soprattutto il riferimento anche in relazione anche al fatto che il lavoro di compositore per teatro, cinema, ma per qualsiasi cosa che non sia musica che suonerai direttamente, insomma, è una cosa che io ho sempre considerato abbastanza collaterale rispetto al mio mestiere di musicista, perché normalmente suono live, registro dischi che poi suoneranno live, sono di formazione sostanzialmente jazzistica e quindi performante, più o meno in tempo reale, ecco, e quindi scrivere per altre destinazioni d'uso è una cosa che ho sempre considerato ok, c'è questa persona che ha bisogno del mio servizio, mettiamoci al servizio di questo regista, di questo coreografo piuttosto che altre figure e misuriamoci con questa cosa. È un'esperienza che tra vari registi, vari film, varie opere durate una quindicina d'anni, e effettivamente con l'uscita di questi due film, The Origins of Music, uscito a novembre in Spagna, e Segantini, Ritorno alla Natura, chiacchierando con il mio editore, con l'etichetta, insomma, gli ho detto, vabbè, ma visto che c'è un sacco di materiale non edito su cui hai lavorato in tutti questi anni, facciamo un disco a tema, diciamo. E così è stato, insomma. Per cui l'incubo consiste nel fatto di scegliere, semplicemente, come al solito, scegliere la scaletta, scegliere i brani giusti, fare in modo che tutto ciò sia gradevole anche fuori dal contesto per cui è stata scritta, insomma. E che sia omogeneo come risultato finale. Sì. Io ti devo fare assolutamente i complimenti per la tua interpretazione del Bolero di Ravel, perché sono molto contento. È una versione davvero entusiasmante, un po' insomma, diversa da quello che magari può un ascoltatore trovarsi, insomma, dalle varie interpretazioni classiche, ecco, classicheggianti di questo pezzo, che è uno sicuramente dei più belli mai scritti in assoluto. Cioè, assolutamente, nella storia della musica. Sì, non ci sono, penso, dubbi a riguardo, ma no. La tua versione, che ascolteremo sicuramente nel corso della puntata, è veramente stupenda e ti faccio i miei complimenti. Com'è nata questa tua versione? Guarda, intanto ti ringrazio di nuovo, fa molto piacere. La versione è nata per esigenze, appunto, di Daniel Arbizu e Sam Madrigal, che sono di origine messicana, che però fanno base a Barcellona, e avevano assolutamente bisogno di una versione del Bolero, perché il Bolero, essendo abbastanza mantrico come concezione, ha bisogno, e trattandosi il film di Daniel e Sam, essendo un documentario scientifico proprio in senso stretto, rispetto a come agisce la musica sul cervello e che cosa produce in termini culturali dalle origini dell'uomo ad oggi, per cui abbastanza complessa, hanno reclutato luminari da tutto il mondo per cercare di spiegarci come funziona. Il Bolero è un brano utilizzato abbastanza spesso da scienziati per testare l'effetto che fa sulla corteccia cerebrale rispetto a, perché è un brano che ha un vago sapore appunto orientaleggiante, ma è assolutamente della tradizione classica occidentale eurocentrica. E quindi si presta molto bene a studiare gli effetti della ripetizione, gli effetti del reiterarsi di determinate dinamiche. E quindi però non volevano ovviamente una versione classica, una versione come dire nota. Sì. Avevano una versione elettronica che non li convinceva. E allora quando comunque mi hanno reclutato per occuparmi anche e supervisionare anche altre musiche di altri artisti che sono presenti nel documentario e per chiudere anche il lavoro con altre musiche aggiunte, ecco che mi sono inventato questa versione in cui i temi si rincorrono, fatti da, che poi appunto come concetto non è molto diverso da come l'aveva pensata Ravel. Sono i timbri e il suono dell'ensemble, del sestetto, che cambia moltissimo, e il fatto che una chitarra elettrica che mano a mano diventa sempre più violenta e aggressiva col crescere dell'intensità crea una diversità, certo. Tema suonato all'inizio dal laud e poi dal baritono, sax baritono, e poi dal soprano, e insomma credo che sia questa la cosa che è piaciuta particolarmente. E suonato dal vivo poi per le riprese reali del film, se mai ti capiterà di vederlo, suoniamo per un piccolo gruppo di persone, proprio durante la spiegazione dell'effetto. Ah, quindi c'è anche una performance live riguardo a questo? Sì, che è stata mostrata poi nel film, certo. Sì. Ah, ma la versione che ascoltiamo sul CD è una versione live? È quella versione lì, esattamente. Ah, allora a maggior ragione ti faccio i miei complimenti, perché non ci sono sbavature, ma è una versione davvero molto ipnotica e ovviamente sì, è inutile dirlo, sensuale, perché è un brano sensuale come non altri, e comunque non vedo l'ora anche di vedermi questo documentario, perché trovo il tema interessantissimo, spero di recuperarlo in qualche maniera. Sì, non... sì, certo, io credo che nei prossimi mesi verrà presentato anche in Italia. Ti terrò informato. She wore blue.